broadcastitalia.it. Broadcastitalia.it, siamo in collegamento diretto con Radio Telemagia 91.7 sulle frequenze di Frosinone. E c'è anche un telefono a cui potete accedere, che è lo 06 972 70 850. broadcastitalia.it. Molto presto di mattina. È il titolo di una raccolta di conversazioni con grande poeta inglese contemporaneo, Dylan Thomas, tenne alla BBC all'ora dell'alba negli anni 60. Grande poeta, perennemente in miseria e molto più spesso ubriaco, accettò l'incarico perché spinto dalla fame. Dal caso e dal bisogno uscirono così pagine splendide, esilaranti, tragiche, in cui Thomas riversò i suoi ricordi più folli. E creò per la radio un linguaggio tutto particolare, una sintassi specifica radiofonica, perché ogni periodo, ogni frase risultassero incise nell'ascolto, perfette, equilibrate come la bilancia di un orefice. Gioielli di 3 minuti che erano un'interfaccia perfetta fra lui e l'ascoltatore, la clessidra dove versava le sue parole come sabbia a misurare il tempo. Io non ho alcune ambizioni di copiare l'inimitabile, ma molto presto di mattina la mente sveglia come non lo sarà mai più nel resto della giornata o della vita. È forse colpa di quella luce che irrompe dalla finestra e risistema la nostra stanza sconvolta dal sonno, dai sogni e dal buio, come dice Marcel Proust, quella luce che è il dito levato del giorno. E poi c'è un vantaggio. Ti ascolta a quell'ora soltanto un tuo pari, qualcuno che come te si è svegliato presto, o perché ha da fare tante cose, o perché lo ha destato un sogno molto bello o molto brutto, o perché, come tanti grandi nel passato, vuole assaporare il giorno che nasce prima di tutti gli altri, vuole che quella luce sia soltanto sua. Guarda quasi con dispetto il dirimpettaio che dalla finestra di fronte solleva anche lui le serrande e osserva fuori, annusa come lui l'aria per sentire se sa di pioggia o di sole o di nebbia o d'inverno. Per capire quanto è lontana la primavera che si attende, quanto è distante l'autunno che ci ha lasciato appena ieri. Uomini dell'alba, unitevi. Il mio primo pensiero è e sarà per voi. Poche parole, poche righe, poche frasi. Ricordi, pensieri, speranze. Incubi, sogni, desideri, ossessioni. Tutto ciò che può passare per la mente di chi vi parla molto presto, di mattina. Broadcast Italia presenta Edit. Lambs wool under my naked feet. The wall is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander's currents into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. Fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture, a cord in celluloid. There's no hiding in my memory. Buonanotte, buonanotte a tutti quelli che sono in ascolto sul web. Sono circa 30 anni che non faccio più un programma in una radio privata. Sulla web radio è praticamente la prima volta e voglio salutare intanto tutti coloro che si sono messi in ascolto o perché avvisati da me o perché per caso sono finiti su broadcastitalia.it o su Radio Telemagia. Su Radio Edit è il nome del programma che state per ascoltare, che sarà solamente un gioco, un viaggio tra voce e musica attraverso le cose che ci hanno emozionato in questi anni. Anni sono successe molte cose ci hanno emozionato, molte cose non ci sono più, come non c'è più un cantante, ma qualcuno ha detto che sarebbe ritornato a cantare insieme ai Genesis, ed è un concerto che io per esempio non sono mai riuscito a vedere, The Land Lies Down on Broadway in live. Cosa che invece spesso succede girando per il web e magari andando a finire in un sito che si chiama YouTube. E lì i vari ricercatori, i vari appassionati possono trovare una marea di filmati che riprendono Peter Gabriel insieme ai Genesis in quel periodo lì. Cosa veramente stupenda. Broadcastitalia.it, Edit, al microfono con voi, insieme a Radio Telemagia. 06 97 27 08 50 è il telefono, lo dico con un po' più di calma, 06 97 27 08 50. Peter Gabriel. Bellissima questa versione che Peter ha fatto da solo, naturalmente, senza i Genesis, in una delle versioni che probabilmente hanno fatto parte di alcuni dei molti concerti che ha fatto in giro per il mondo. Mi ha fatto molto piacere ricominciare laddove ho finito. Negli anni 70 ho finito le trasmissioni mandando in onda un disco dei Genesis che si chiamava Wind and Watering, che avevo appena comprato a Londra nell'unico, primo e unico viaggio che ho fatto in quei luoghi. E dicevo prima che molte cose sono cambiate. Cosa succede in un DJ negli anni? Si cambiano anche i modi di ascoltare la musica, i gusti, quello che ti prende, quello che sono poi i viaggi mentali e quelli che sono anche i momenti di tranquillità, di pace. Ma a questo poi torneremo dopo. Nel frattempo, intanto che Peter sta finendo la sua performance di Carpet Crawl, tratto da The Land Lies Down on Broadway, c'è un altro personaggio che è scomparso in questo periodo, ed è una cosa che ci ha fatto molto male, perché è un musicista che ha dato molto a tutti noi. Thank you. sono andato a recuperarlo da un vecchio disco insieme al suo gruppo, gli Steps Ahead. E insieme a lui c'erano Peter Erskine, Eddie Gomez, Mike Maineri e al pianoforte una bravissima Eliane Elias. Steps Ahead, il personaggio in questione naturalmente era Michael Brecker. Michael Brecker, Eliane Elias al piano, Peter Erskine alla batteria, Eddie Gomez al basso, che lo sentiamo in sottofondo, e Mike Maineri, qualcuno mi ha detto, faccelo sentire, Eddie Gomez al basso, ok? Eddie Gomez al basso in un disco degli Steps Ahead, un disco in vinile che fa parte della mia privata e preziosissima collezione, un disco del 1983, e io ricordo che spesso mandavo in onda questo brano perché mi dava la possibilità di pensare alla città quando tu vai in trasmissione. A cosa pensi? Dove andrà a finire quello che tu mandi in onda? Dove andrà a finire quello che senti, quello che pensi, quello che dici? E allora immaginavamo di stare su un'antenna all'epoca e di guardare la città dall'alto e cercare di avvicinarci come in una specie di zoomata alle varie finestre della città accese o spente, in cui c'era qualcuno che studiava, qualcuno che stava facendo l'amore, qualcuno che stava litigando, qualcuno probabilmente che stava anche morendo, perché no, qualcuno che stava uscendo da casa preparando i suoi strumenti per andare a suonare in giro per la città, o qualcuno che forse andava solo a cercare dei cornetti caldi. E questo succedeva insieme alla mia musica, insieme a quello che noi mandavamo in onda e che dalle telefonate che arrivavano ci faceva capire che le persone che stavano insieme a noi stavano molto bene. Spesso ci portavano dei regali, spesso ci portavano in giro per la città raccontandoci quello che stavano facendo. Spesso qualcuno ballava insieme a noi con la radio a tutto volume in qualche quartiere isolato, spero. Perché abbiamo mandato anche della musica meno colta qualche volta, anche qualcosa che si poteva danzare o ballare. In questo caso è Edit, un programma che irradiato, si può dire, dal web, da broadcastitalia.it, in collegamento con Radio Telemagia, e abbiamo anche un contatto telefonico che è possibile attivare, che è lo 06 972 70 850. Buon viaggio a tutti quelli che ascolteranno, buon viaggio a noi, buon viaggio a voi, buon viaggio a tutti quelli che stanno per sintonizzarsi con il computer su Broadcast Italia e sul web alla ricerca di qualcosa di nuovo. Sentite questo vibrafono. Impossibile non ascoltare tutto questo brano, ma io l'ho preso appositamente per parlare un po' con voi, perché una delle cose che mi piaceva fare, e forse do fastidio a qualcuno, lo so, però era parlare con la musica, cioè farsi ispirare dalla musica, da quello che mandavi in onda, per capire qual era la temperatura, qual era l'emozione che stavi cavalcando. E avevi preparato un disco dopo di questo e mentre parlavi avevi capito che non era più quello, ce ne voleva un altro. In questo caso però, visto che abbiamo parlato di Michael Brecker e che lo abbiamo ricordato, vi faccio ascoltare una cosa piuttosto rara. Il 15 luglio del 1987, qui a Roma, dove è la nostra sede di trasmissione, siamo in diretta naturalmente, quello che avete ascoltato era un vinile, lo ripeto perché è una cosa che forse può emozionare qualcuno. Eravamo tutti seduti in una scalinata in un posto all'Euro, dove Michael Brecker aveva portato un suo gruppo insieme a un chitarrista che si chiamava Mike Stern, e ci aveva portato a far conoscere un nuovo strumento ad aria che lui aveva chiamato Iwi. Eravamo tutti seduti in questa scalinata, eravamo tutti abbastanza agitati, si fumava qualche sigaretta speciale, chi era lì in giro seduto su questi cuscini abbastanza scomodi. Comincia al pianoforte Joy Dominic Calderazzo. Il gruppo era formato da Adam Nausman alla batteria, Jeff Andrews al basso, Michael Brecker all'iwi, Mike Stern alla chitarra, Joy Dominic Calderazzo abbiamo già nominato al piano. Il brano si chiama Nothing Personal. C'è una lunga introduzione al pianoforte e tra poco Michael Brecker ci presenterà questo nuovo strumento che aveva portato allora. 15 luglio 1987, dal vivo a Roma, Michael Brecker. Thank you. È la prima volta in assoluto che mandiamo in onda un brano registrato da un concerto di Michael Brecker il 15 luglio 1987 a Roma, dove Michael Brecker, da poco scomparso, ci portò a conoscere questo nuovo strumento che si chiamava iwi, che non abbiamo ascoltato in questo brano. Sentite che bel gruppo, che tensione. Ancora un po' con Michael Brecker, ancora un attimo con Michael Brecker. Intanto vi ricordo che questa è broadcastitalia.it, in collegamento diretto con Radio 3 Magia 91.7 sulle frequenze di Frosinone, e un telefono che è 06 97 27 0850. Non c'è il collegamento Skype come qualcuno aveva svelato. Michael Brecker live a Roma. Michael Brecker, Mike Sterr, Jeff Andrews, Joy Dominic Calderazzo, Adam Nausbaum, dal vivo a Roma nel 1987, il 15 luglio, giorno del mio compleanno. Fu un concerto memorabile, bellissimo, stupendo. Ma cambiamo cose, io non vorrei lasciarvi troppo ascoltare un sound che è abbastanza schiacciato e che è una registrazione live, rarissima peraltro. E vi faccio ascoltare un personaggio che ha fatto delle canzoni molto belle. E una di queste, riascoltando un suo vecchio disco, si chiama Use Me. Just Me, Use Me, Bill Withers. Un'entrata un poco pasticciata, ma è appunto una radio privata. Real rude to me, but don't be Use Me, Bill Withers, forse non era molto adatto dopo Michael Brecker, questo lo riconosco, ma cosa succede? Quando si ha voglia di cambiare il sound, bisognerebbe forse prepararlo un po', magari con un intervento vocale. Qualcuno mi diceva che non riesce a sentirci sul web, ma non è una cosa difficile. Andate su broadcastitalia.it, c'è una clip in cui si dice ascoltate la radio in diretta, on air, e lì dovrebbe comparire la vostra musica. Qualche tempo fa, scartabellando i dischi nella mia grande, immensa discoteca di LP, ho ritrovato un LP che risentirlo oggi mi sembra una cosa eccezionale. Era un disco minimalista, fatto con un organo a due tastiere, con la batteria elettronica inserita nell'organo. E questo è un brano che è stato reso famosissimo da Sade, ma questo signore qui è quello che l'aveva composta. Timmy Thomas, We Can We Live Together. Timmy Thomas, un LP bellissimo, ascoltato tutto, è veramente eccezionale. Forse ascolteremo qualche altro brano durante la serata, se me lo consentite. Cosa succede a una persona, a un DJ che riprende a fare la radio dopo tantissimo tempo? Chiaramente io ho fatto qualche cosa nel frattempo per quanto riguarda la musica e la radio, ma noi qui stiamo parlando di Broadcast Italia, cioè di un gruppo di persone che si sono rincontrate dopo una trentina d'anni e hanno riparlato dei primi tempi in cui facevano la radio, in cui hanno creato un modo nuovo assolutamente di ascoltare musica che non si poteva più ascoltare. E oggi quando un DJ si mette a rifare la radio pensa: che cosa posso fare, che cosa posso mandare in onda? Senz'altro niente di nuovo, niente che non sia stato mai fatto. E la cosa particolare è la persona che c'è dietro il microfono, che deve essere viva, cioè non deve essere una macchina con tanti CD messi in fila, ma deve essere qualcuno che riesce ad ascoltare la musica insieme a voi. In questo caso, dopo Timmy Thomas, veniva dagli anni 70, qualcosa di più recente, una persona che ha affascinato moltissimi nei suoi live e anche in un film, il numero 2 dei Blues Brothers, Erika Badu. Broadcast Italia, in collegamento con Radio Telemagia, 91.7 sulle frequenze di Frosinone. Un telefono per contattarci che è 06 97 27 0850. Il programma si chiama Edit. Separate the good stuff from the junk, and then I brain bang the bump the bumper. My name is Apple, and I rock your world. Why do your math? 30, 26, 36 and a half. I hope that you will realize I got the hazel light making nature bad. Step in the back, step to the front. I come alive, y'all. I give you what you want. The rhymes I got plenty, degrees 120. And if you want some, the jump the fuck in. Queen, L-A-T-I-F-A-H in command. Jersey was poppin', we ain't gon' stoppin'. Keep them heads boppin', the remix droppin'. Big girl, big truck, big grim whipper. Loxy for you, they got my back. Shut your lip up, doon it, turn it up. We gon' burn it up, take another pool and pass out on the furniture. Hip hop, part of me, I just wanna party. Grab somebody, sing like the daddy. 8-7 Fila, suit to Deodora. 2K Dallas is a Bella Fiora. Erica, Angie, me, Bahama D. Show the whole wide world the meaning of MC. Look, I be in love with a thing called hip hop. We go together like beat boys and shell tops, and it don't stop because I can't quit. My whole intention is to build in the uplift. I be the ultimate microphone lyricist, soloist with the inner self accent, a living legend. Baby, throw me on the track and I'm guaranteed behind my ear to the crack. Erika Badu, Broadcast Italia, in collegamento con Radio Telemagia. 06 97 27 08 50 è un contatto che potrete utilizzare. Era Erika Badu e adesso c'è una cosa molto interessante, perché qualche giorno fa sono andato gironzolando per le campagne marchigiane e mi sono imbattuto in un gruppo di musicisti che vivono in campagna, attorniati da strumenti di vario genere, arpe celtiche, morincur, bodhran, strumenti presi da le situazioni più svariate. Questi due sono Gianluca Gentili e Luciano Monceri. Hanno fatto un gruppo che si chiama Duarte. Entract è l'album che hanno costruito e vi faccio ascoltare un brano che si chiama Tunnel. Duarte, Entract, Gianluca Gentili e Luciano Monceri, un duo estremamente nuovo per noi, anche se è un disco di qualche tempo fa. Questo gruppo di musicisti fanno parte di un altro gruppo di musicisti che spesso viaggiano, vanno in Tibet, tornano con esperienze musicali, con strumenti, suonano cornamuse, suonano strumenti tra i più svariati e interessanti. Fanno parte anche di un gruppo di persone che si occupa di produzioni, che si chiama Arte Nomade, sempre dalle parti delle Marche. Diciamo che è un laboratorio di produzione musicale e hanno tentato di raccontare storie antiche, leggende, di rappresentare anche culture lontane, molto lontane da noi. Il brano che vi faccio ascoltare adesso si chiama La volontà di conoscere. Il gruppo comprende gli stessi musicisti che abbiamo visto prima: Maurizio Serafini alla cornamusa irlandese, alla cornamusa scozzese in altri brani, Angelo Casagrande al violoncello elettrico, Luciano Monceri alla chitarra acustica, all'arpa irlandese, alla chitarra elettrica, al cantele nordico. Ed è un brano che si chiama La volontà di conoscere. C'è un testo tratto liberamente dal dalle leggende dei Monti Sibillini. E dice: il viaggiatore si ritrova spesso senza una meta, perché è nel tragitto, nell'alternarsi dei fugaci paesaggi e negli incontri che giustifica il suo mobilismo. Il cavaliere tedesco no. Lui ha bruciato le tappe per la meta, per arrivare sotto le pendici di quei monti che da sempre lo hanno eccitato e confuso, per ritrovare quell'energia di cui ha tanto bisogno per superare i limiti della conoscenza fisica e dottrinaria, per esasperare il suo potere già grande e combattere i dogmi divini. Sopra di lui, intagliata nel buio della notte, le sagome di cime silenziose, apparentemente quiete. Eppure tutti sanno cosa nascondono le viscere di questa terra indemoniata. Tutti sanno dei terribili poteri che si possono acquisire qualora non la si fugga. Solo gli audaci, come il cavaliere tedesco, sono disposti a rischiare la vita per l'inconoscibile. Nessuno è mai tornato indietro. Tutti lo sanno e lo temono. Solo chi ha amato di grande volontà e di disponibilità a vedere l'impossibile può sostenere le energie infernali di questi monti. Questi uomini sono chiamati negromanti. E su c'è un lago dove si consacrano i libri di magia nera. E questo è il lago di Pilato. Su c'è un antro, forse la porta dell'inferno, dove si dice ci sia l'accesso al regno della Sibilla, il regno del futuro, dell'immortalità, dell'antipotere, la cui forza è uguale e contraria a quella di Dio. E chi vi entra sarà dannato per sempre. Eppure questi monti sembrano così silenziosi e quieti. Ogam. Regno della Sibilla, un gruppo italiano che si chiama Ogam, una totale novità per noi, un disco scovato fra le dolcissime colline marchigiane, un gruppo di musicisti, di ragazzoni simpatici alle prese con una marea di strumenti particolari. Questo lavoro è dedicato ad alcune storie dei Monti Sibillini. Forse piaceranno molto anche i nostri amici di Radio Telemagia. E questa è una suite che loro hanno praticamente costruito su tutti questi testi tratti appunto dal Regno della Sibilla. È stata una bellissima esperienza per me incontrare questi musicisti. Io ero praticamente una sera a casa con loro e qualcuno di loro, appunto Luciano Monceri, aveva un'arpa celtica nascosta in un anfratto della sua casa, e gli ho chiesto gentilmente se potevo suonarla, e praticamente sono rimasto tutta la notte e buona parte del giorno a pizzicare le corde dell'arpa celtica. Per me è stata un'esperienza totalmente meravigliosa. Vi ricordo che siete all'ascolto di broadcastitalia.it, in collegamento diretto con Radio Telemagia. 0697 270 850 è il contatto che potete utilizzare. Credo che potremo ascoltare ancora un'altra cosa tratta da questo gruppo. Ancora gli Ogam. Gli Ogam mi riportano però a riascoltare un vecchio amico che ho anche lui incontrato, rincontrato, invece in Umbria, in una città piena di torri, San Gimignano. L'ho trovato sotto alcuni archi che suonava da solo lì, con la gente intorno in preda a una grande magia. Lui è Andrea Piazza, questo è uno dei lavori che ha costruito e che suonava dal vivo, dalle persone. Non so che fine abbia fatto, forse è ancora lì, non lo so. Andrea Piazza. Era Andrea Piazza da uno dei suoi album che regalava dal vivo alle persone che lo andavano ad ascoltare lì a San Gimignano. Ancora Yogam, questo mi servirà per introdurre una cosa che vorrei ascoltare dopo. Yogam, ripeto, sono un gruppo che ho incontrato e conosciuto attraversando le colline marchigiane ed è un gruppo di persone che si occupano di musicisti che ispirati anche dai viaggi di un personaggio che si chiama Matteo Ricci, che andò tantissimi anni fa, nella seconda metà del 1500, in Cina e stavo cercando qualcosa sulla ricchissima copertina che accompagna questi CD. Io credo che a questo punto e a quest'ora molti dei nostri ascoltatori staranno dormendo tranquillamente con il computer acceso, ricordatevi di spegnerlo. Broadcast Italia si prende sul web, broadcastitalia.it, in collegamento diretto con Radio Telemagia 91.7 sulle frequenze di Frosinone, e abbiamo un telefono che è 06 97 27 08 50. Edit è il programma che state ascoltando. Vi prometto tra poco di nuovo un po' di brio, ma per il momento Ogam. Abbiamo ascoltato tre novità questa notte da broadcastitalia.it. I Duarte, un duo di chitarristi e cornamusisti e arpisti. Quindi Yogam, un altro gruppo che, ripeto, conosciuto tra le colline marchigiane, ma che comunque sono molto conosciuti dagli amanti di musica irlandese, e organizzano anche una festa speciale di cui magari parleremo un'altra volta. Nel tempo, dicevo, abbiamo mandato in onda tanta musica, rock, jazz, funky. Poi nel tempo il nostro modo di ascoltare la musica cambia, si è cominciati ad ascoltare magari Carly Simon, Lucio Battisti, addirittura Claudio Baglioni, perché no? Però a un certo punto sono cambiate alcune cose, è cominciata a penetrare la musica classica. E un'altra delle cose che invece ci ha molto colpito è che è quasi un rituale andare ad ascoltare. È un trio molto particolare. Keith Jarrett, Gary Peacock e Jack DeJohnette. Ve li offro in una incisione molto bella da Broadcast Italia. Buon ascolto. Keith Jarrett. E siamo arrivati a metà strada. Era Michael Brecker, anzi Michael Brecker è questo, ma prima era Keith Jarrett in un trio, Peacock e Dave Jonette. Si sentiva non troppo bene, per cui abbiamo deciso di cambiare leggermente il sound, perché Broadcast Italia si sente molto bene sul web. E allora una leggera distorsione anche nella messa in onda non rende la musica appetibile. Cosa succede adesso? Beh, abbiamo sentito musica irlandese, forse un po' troppo lenta per l'ora, qualcuno si è già addormentato, cominciamo a risvegliarci. Qui, dalla nostra postazione radiofonica, possiamo ascoltare addirittura dei 45 giri. Vi ricordate come sono fatti? Piccoli, col buco in mezzo? Bene, ne è pronto uno, esattamente nella piccola macchina che sta lì, che è un giradischi, e potrebbe già andare in onda un vecchio combo latinoamericano. Sentite com'è rovinato questo 45 giri. Un bellissimo 45 giri che avete sentito, faceva parte dei 45 giri che mio padre teneva nella macchina in un mangiadischi e che io a 2 anni cominciavo a mettere. Che cos'è questa cosa? No, è impossibile, non c'è una continuità questa sera, è tutto decontestualizzato. C'è un personaggio che a Roma in questi giorni ha fatto un grande concerto nel nostro auditorium, si chiama Armando Trovajoli. Armando Trovajoli, che ormai è un signore di una certa età, ha fatto le musiche per Rugantino, per Ciao Rudy. Qui, da Rugantino, con una cantante e un'attrice bravissima, Lea Massari. Quando una buona donna svolta l'angolo, è una regola de drammatica. Chi fa un sorrisetto? Chi gli fa un fischietto, chi gli fa un inchino, chi gli fa un sorridino. E chi a tradimento al complimento butta lì. Derba fina, un argentiere va portata a Roma e poi va messo dentro una vetrina. Fiore d'arbicocca, però su sta vetrina c'è una scritta che dice che se guarda e non si tocca. Vabbè, bisogna cazzabubboli, rompiscatole, scassa timpani, siete una caterva dei fanatici. Ma che volete fare? Quando passiamo fa della propenna, l'occhio fracico come cefalo, sempre de vedetta come i cacciatori, con la panza stretta, corto roce in fuori. Fate i finti tonti, sempre pronti a cominciare. Ecco Lando Fiorini, sentite che vocina. Per me non esiste altra edizione di Rugantino bella come questa. Ruzzate un po' con l'angeli e scendete. Ecco Lea. Fiore d'inverno, io vado in paradiso e poi ritorno. Ma tu che aspetti a nattene all'inferno? Oh! Lea Massari, Lando Fiorini. Nel gruppo c'era anche Paolo Panelli, Bicevalori, e anche un grande come Aldo Fabrizi. Era un cast stupendo. Qualche volta Tony Ucci al posto di Nino Manfredi che faceva Rugantino, un'edizione speciale. E questo è un altro grande della musica italiana, un altro 45 giri di quelli rovinatissimi, Babbaci, Natalino Otto. Babbaci, ritma col suo dolce suono, la chitarra un motivetto di canzone. Si sente lontano e poi ti passa vicino, ti sembra col vento accarezzare. Si può far del ritmo con la tromba e col piano, è facile il tono se vuoi cantare. Terre c'è, Babbaci, ritma col suo dolce suon, la chitarra motivetto di canzone. Si sente lontano e poi ti passa vicino, ti sembra col vento accarezzare. Si può far del ritmo con la tromba e col piano, è facile il tono se vuoi cantare. 45 giri rarissimo di Natalino Otto, sul retro del quale c'era una canzone che si chiamava Stupidella. Bellissimo questo arrangiamento, sentite il 45 giri che era abbastanza rovinato, non tanto per l'epoca, perché epoca, perché io mi ci divertivo molto con la puntina a passeggiarci sopra, a fare un sacco di caos. Dunque, no, possiamo passare tranquillamente a quel brano lì che avevo preparato prima. Questo era Natalino Otto che abbiamo appena ascoltato, un disco che io amo tantissimo, e questo di nuovo è un signore che prima abbiamo ascoltato in un brano famosissimo che Sade aveva portato al successo, Timmy Thomas, ancora col suo organo. Poteva essere un Hammond? No, non credo che fosse un Hammond. Proprio quegli organi a doppia tastiera che si mettevano a casa tutti di legno con la tastiera elettronica. Sentite che storia. Minimalismo puro. Senti come canta Timmy Thomas. Broadcastitalia.it, Radio Telemagia 91.7, Broadcast Italian on the web. Guardate che basso in fine day state of bone turn. Oh, I'm a fine little tender boat of again. Timmy Thomas, the rare long plane on vinyl. Cold people. Made me lose me, left me for dead. Cold, cold people stick out their hand and ask me how am I feeling. Those same cold people put it back, ask me am I willing. Cold, cold people. È talmente bello questo disco del 1972 di Timmy Thomas che ho pensato una sera, e forse lo faremo, di sentirlo tutto. Qualcuno mi guarda male. Però, data l'ora, questo è un personaggio che con la tastiera, la voce, fa delle cosette niente male. Ecco, il finale. E poi c'è un altro brano che inizia dopo, che si chiama Opportunity, sempre di Timmy Thomas, che mi consente però di presentare il brano che viene dopo e che piano piano entrerà in sottofondo. Prima parlavamo di un personaggio che si chiama Armando Trovajoli e abbiamo ascoltato una cosa che veniva da una delle sue opere più belle, che era Rugantino, una partitura musicale dal quale sono uscite delle canzoni memorabili e storiche come Roma non fa la stupida stasera e altre. Ma c'è un'altra opera musicale che Armando Trovajoli ha costruito e composto. Si chiamava Ciao Rudy e questa è l'immensa, la grandissima introduzione di questa commedia musicale, con un'orchestra enorme e stupenda, un balletto stupendo. Dal Teatro Sistina in Roma, Ciao Rudy, da BroadcastItalia.it. e qui entrava il corpo di ballo con Raffaella Carrà. Poi c'era anche Paola Borboni nel gruppo delle donne di Rudy, e Rudy era Marcello Mastroianni. Nell'orchestra Carlo Loffredo, al pianoforte credo Armando Trovaioli, ma non ne sono sicuro. Questa è una versione rarissima che non è stata mai ripubblicata in CD. Questa è un vinile originale dell'epoca. Ciao Rudy, dal Teatro Sistina in Roma. Rudy! Ciao Rudy, grazie Armando Trovaioli per questa musica, grazie per il vinile che è rimasto intatto e non è stato mai ripubblicato. E questo è un signore che molti abbiamo amato dal vivo. Carlos Santana. Da Armando Trovaioli a Carlos Santana. David in regia. David, Daniel in regia. E Lux Luciano. colgo l'occasione per ricordarvi che siete all'ascolto di Broadcast Italia. Ci siamo svegliati, sì, perché si può fare la radio notturna solo a bassa voce? No, si può anche dire che questo è Carlos Santana. Carlos Santana e Buddy Miles Live. Un disco che non riuscivamo mai ad ascoltare quando eravamo giovanissimi perché era stampato molto male. Grazie ai CD, a un certo punto abbiamo potuto riascoltarlo. Broadcastitalia.it, in collegamento diretto con Radio Telemagia, 91.7 delle frequenze di Frosinone. Edit al microfono con voi, Carlos Santana. Michael Breger, di Parpo. Che siete matti? In regia sono pazzini! Broadcast Italia.it. Highway Star di Parpo. We'll be right back. È uno spettacolo inguardabile, si sono messi a suonare tutti in regia, chi mima l'organo Hammond, chi fa la chitarra, chi fa il batterista, così facevamo quando ascoltavamo sta roba. Adesso che c'è il duello con la chitarra? Deep Purple, Broadcast Italia.it on the web. Pensare che tutto era cominciato un'ora e mezza fa con un'accordatura di orchestra in un auditorio. Siamo finiti a ascoltare i Deep Purple. Ma che che fai? Abbassa, alza, alza che c'era solo! Che non si sente perché sta sull'altro canale! Facciamolo noi. Io non lo posso fare con la bocca, non sapevo. Non lo posso. No, con quello non lo posso fare. Non adesso, più tardi. Una Coca-Cola, per favore. Aspetta, perché manca completamente la chitarra, che era il punto, il pezzo clou di questo brano. Ciò significa che possiamo ascoltare soltanto dei 45 giri mono. No. È colpa mia? L'ho registrato io così? L'ho scaricato da internet. Sono io che non sento l'altro canale? Ma allora siete dei pazzi scatenati! Roba da matti, mi avete tolto il canale con la chitarra. No, torniamo alle cose serie, vi prego. Basta, basta, basta. Questa è musica per la pubblicità? Ma che me l'avete messo? Cos'è sta roba? Comunicato commerciale. Broadcastitalia.it in collegamento diretto con Radio Telemagia 91.7. Anche questo si doveva fare in una radio privata. Diventerà mai una radio privata Broadcastitalia.it? Privata da che? Pat Metheny e Gary Barton. Al banco pesce, gamberetti a 2 euro sbucciati. Si sbucciano i gamberetti, no? We'll be right back.

sono i tuoi baci, le passeggiate in bici. Amo me, sei buona come pane, le guance rosse piene. La teglia in terra cotta, qui dentro che borbotta. Ascoltami, solo con te io posso parlare. Ascoltami, tu sai che l'amo e non lo so dire. Aiutami, aiutami tu. Se anche voi avete il tormento di una pelle opaca e scialba, o peggio, la bellezza del vostro viso è offuscata da foruncoli, punti neri, pori dilatati, provate anche voi, subito, il tonico Camellia. Sono scritte col fuoco. Questo nuovo purificatore della pelle sarà per voi una meravigliosa scoperta. Porta a galla i punti neri, elimina i foruncoli, rende la pelle trasparente. Fino a te ti voglio bene. Ho scritto lassù. Questo era un 45 giri allegato alla rivista Il Musichiere, non mi ricordo più di quanti anni fa, ed era la primissima Mina alle prese con una canzone che si chiamava Ho scritto col fuoco. E c'era sulla copertina di questo 45 giri di plastica morbida, non so neanche come faccio a leggerlo quel giradischi, in cui c'era questa simpatica pubblicità di un tonico, il tonico Camellia, che spero non esista più, altrimenti gli abbiamo fatto una grande, gratuita pubblicità. E siamo pronti per ascoltare un'altra canzone dal nuovo disco di Sergio Lucchetti, che si chiama L'inquilina del terzo piano. L'inquilina del terzo piano, non la sento e mi sembra bello. Lei cammina a piedi nudi, piedi con i tacchi a spillo. Altrimenti è una tortura, fra mezz'ora lo sentirai. Si riprova 300 parrucche, vestiti che non mette mai. Qui nessuno sa chi è, se lavora, come vive. C'è chi dice che è cieca, chi un'attrice fa le prove. L'inquilina del terzo piano non ha neanche una televisione per sapere cosa sono la volgarità e la maleducazione. Lo sai che mi piace il caffè solamente la sera. Potessi parlare con te, vederti una volta sola, dai, ci provassero a ballare proprio qui sulla pista del mio cuore, e poi fare un salto e poi volare fino lassù al confine con il sole. Ma dove sei ora, dove sei? Terzo piano, è un altro amore intrappolato in coda con dolore, la faccia sulla strada. L'inquilina del terzo piano, le tentazioni come malattie, la fanno stare in piedi tutta la notte a strappare le sue fotografie. Lo sai che mi piace il caffè solamente la sera, potessi parlare con te, vederti una volta sola. Trovassero a ballare sulla pista del mio cuore. E poi fare un salto e poi volare fin lassù, al confine con il sole. Ma dove sei? Ora dove sei? Sergio Lucchetti, che avremo presto qui nei nostri studi per presentare completamente il suo nuovo disco, che non mi sembra una cosa, una grande novità dal punto di vista musicale, ma voglio dire, è un ragazzo che canta piuttosto bene e anche i testi, anche delle altre canzoni, non sono affatto male. La produzione è stata fatta praticamente con tutti i musicisti veri, si suona, batterista vero, niente campionature o almeno pochissime cose, insomma ci fa molto piacere. Di nuovo Sergio Lucchetti dal suo album che si chiama La Luna. Siete all'ascolto di broadcastitalia.it, in collegamento con Radio Telemagia 91.7 sulle frequenze di Frosinone. Spero che qualcuno sia stato contento di aver ascoltato un programma così molto semplice, alla ricerca di brani e di piccole atmosfere. Forse qualche volta abbiamo esagerato, ma non so. Sergio Lucchetti, broadcastitalia.it, sul web, una nuova web radio costruita da tutti i personaggi, da molti dei personaggi che hanno fatto la radio negli anni 70. E colgo l'occasione per dirvi che se qualcuno è in ascolto e ha nel cassetto vecchi nastri a bobina o a cassette di programmi radiofonici dell'epoca, saremo molto contenti di averli qui da noi e di poterli trasmettere e metterli sul nostro sito, che come potete vedere se siete in collegamento con noi è colmo di cose interessanti provenienti dalle radio degli anni 70. Bene, mancano pochi minuti al finale di questa serata, di questa nottata con Edit in broadcastitalia.it. E questa è la musica che preferisco per cominciare ad augurarvi la buonanotte. Un saluto a chi è andato già a letto, a chi va a dormire, a chi ha telefonato ma che non è stato abbastanza coraggioso da andare in diretta. A volte succede anche a me, qualche volta ho telefonato addirittura a Broadcast Italia e non avevo il coraggio di andare in diretta. Non è una cosa così usuale e semplice. Ma con che cosa vogliamo chiudere questa sera? Beh, con un brano di un musicista che si chiama Newman, e il brano che ho scelto, I Feel Like Newman, è un LP che è stato trasferito in CD da un gruppo di giapponesi. Il brano che vi faccio ascoltare è uno degli ultimi per questa sera, poi ci ritroveremo su questa musica per salutarci, è Midgets. Eccolo, è questo. Era di tutt'altra natura il brano. E ci sono John Newman alla tromba, John Lewis al piano, Jim Quinn al sax alto, Frank Foster al sax tenore, Freddie Green alla chitarra, Milt Hinton al basso, Joe Newman. I Feel Like New Man. Midgets. Italia presenta Edit. E sembrava una cosa seria, un'accordatura d'orchestra. E alla fine siamo finiti a fare un po' i giocherelloni. Va bene, io sono stato molto emozionato all'inizio, molto contento di stare con voi. Però sono molto contento, era molto tempo che non andavo in voce con della musica in sottofondo. Vi auguro di buon ascolto su broadcastitalia.it. Il mio spazio termina qui. Vi ringrazio per l'ascolto e vedrò i vostri messaggi sul web. Credo che se tutto va bene ci risentiremo la prossima settimana. E per il momento vi ricordo che avete ascoltato broadcastitalia.it in collegamento con Radio Telemagia 91.7 sulle frequenze di Frosinone. Da Enrico Di Troia, Edit, una buonanotte a tutti. Thank you. Dalla sede virtuale di Broadcast Italia trasmettiamo Illusioni necessarie da lacritica.net, rivista telematica di arte, design e nuovi media di Enrico Cocuccioni. Illusioni necessarie con la musica dei Kraftwerk. Perché questa scelta? Perché a me viene in mente una famosa pagina di un filosofo tedesco, Martin Heidegger, che riferendosi alla centrale idroelettrica sul Reno, che lui chiama appunto Kraftwerk, opera della forza, opera della potenza, fa un paragone di ascendenza romantica in un certo senso, perché dice: che cos'è invece la poesia dedicata al Reno? Che cosa farebbe pensare a questa differenza tra l'opera della forza e la Kunstwerk, l'opera d'arte? Oggi non siamo più in grado di fare una distinzione così netta, e la tecnologia ha un ruolo sicuramente importante anche nell'arte, quindi l'opera della forza e l'opera d'arte sono sempre più inestricabilmente connesse. In queste incursioni tratteremo argomenti che hanno a che fare con l'arte contemporanea e con i suoi dintorni, in rapporto soprattutto alle nuove tecnologie. Il riferimento è alla riflessione critica che si sta svolgendo sulla rivista web lacritica.net. Ultimamente sulla critica.net ci stiamo interrogando su quelle che potremmo definire le illusioni necessarie. Che cosa sono le illusioni necessarie? Io per prima cosa ho fatto riferimento alla dimostrazione della tecnica della prospettiva che fece Brunelleschi per dimostrare che la prospettiva appunto era un modo efficace di rappresentare per rappresentare lo spazio architettonico, e fece questo esperimento mettendosi davanti al portale del Duomo di Firenze e inquadrando con una tavoletta bucata e uno specchio il battistero che si trova di fronte. La dimostrazione consisteva nel mostrare che da questo buco dietro la tavoletta si vedeva, togliendo lo specchio, direttamente lo spazio reale, mettendo lo specchio l'immagine riflessa capovolta del battistero, che essendo simmetrico oltretutto dava esattamente l'idea di una perfetta coincidenza tra l'immagine raffigurata nella tavoletta e l'immagine che si vedeva nella realtà. Oggi sappiamo che la prospettiva rinascimentale ha dato il via a tutta una serie di costruzioni scientifiche che hanno portato fino alla messa a punto della macchina fotografica, della cinepresa, della videocamera. Il modo con cui guardiamo il mondo presuppone un singolo occhio che nel caso dell'immagine statica viene bloccato, nel caso dell'immagine in movimento c'è anche l'illusione del movimento. Quindi noi abbiamo una tavoletta con un buco e questa dovrebbe essere in grado di rappresentarci la realtà così come appare all'occhio. Quando poi la ripresa video, prima ancora della ripresa video, la ripresa cinematografica, ci mettono nella condizione di avere l'illusione del movimento, noi assistiamo a questa curiosa situazione, che è quella dello spettatore che generalmente sta fermo, sta seduto, è in una condizione assolutamente sedentaria, ma oggi se guardiamo le immagini in movimento della grafica computerizzata, per esempio i ritmi attuali della videografica, danno l'idea di un occhio che non sta mai fermo, di un occhio che si muove in continuazione. È una curiosa condizione quella di chi sta assolutamente fermo o quasi, o perlomeno ha delle vibrazioni interne, dei movimenti che sono una riscrittura corporea del movimento che vede sullo schermo, ma sostanzialmente sta fermo, muove solo la pupilla, muove qualche muscolo, insomma, ecco. Il battito cardiaco sicuramente è alla base, è una specie di metronomo della comunicazione contemporanea, per cui il ritmo, il movimento sono fattori fondamentali della comunicazione, ma io mi chiedo se anche questa non sia, come la prospettiva rinascimentale, una sorta di illusione che è necessaria per noi per appunto affrontare una condizione che potrebbe invece essere descritta come una condizione molto sedentaria, molto statica, in cui non facciamo assolutamente nulla se non stare seduti in poltrona. Dalla sede virtuale di Broadcast Italia abbiamo trasmesso Illusioni necessarie da lacritica.net, rivista telematica di arte, design e nuovi media di Enrico Cocuccioni.